Italia in controluce. Il pomeriggio di Radio 24 con Italia in controluce. Buongiorno a tutti, da Daniele Biacchessi. Come vivono i ricercatori all'estero? Gennaro Grimolizzi si è recato in questi giorni in Gran Bretagna, a Oxford, e ha incontrato alcuni di loro. Vista dall'estero, l'Italia appare come un grande ring, dove i contendenti della politica, prima di fare gli interessi dei cittadini, sono rappresentanti di se stessi. La consapevolezza dell'immobilismo dell'Italia viene rafforzata dalle considerazioni dei ricercatori, scienziati e studiosi italiani ad Oxford, promotori di Fonderia. Si tratta di un laboratorio politico e culturale, creato all'inizio di quest'anno, che intende affrontare, suggerendo proposte concrete, i problemi dell'Italia, indebolita dal punto di vista economico ed intellettuale, oltre che ingiusta socialmente. Ogni settimana i ricercatori di Fonderia si danno appuntamento al Merton College. Dalle loro analisi scaturiscono i consigli per rendere il bel paese, o quel che resta, davvero all'altezza delle altre potenze europee, che nel frattempo si contendono i migliori talenti sfornati dalle università italiane. Ad Oxford, sede di uno degli atenei più prestigiosi del mondo, i nostri connazionali hanno già elaborato 3 progetti in tema di energia, politiche del lavoro e politiche sociali. Giovanni Gruni, laureato in giurisprudenza a Firenze, è il responsabile delle relazioni esterne di Fonderia. Si trova ad Oxford per un dottorato di ricerca sui diritti umani. Siamo interessati a iniziare una discussione su come poter cambiare il nostro paese in meglio, con una forte accento, una forte attenzione ai contenuti, piuttosto che al dibattito ideologico. Il sistema universitario italiano non pone al vertice delle priorità il merito. Mancanza di fondi, baroni, baronetti e nepotismi ingessano la ricerca. Andare all'estero diventa dunque l'unica scelta. Come italiani all'estero siamo un po' intristiti da quello che succede in Italia e allo stesso tempo ci sentiamo la posizione da poter forse dare un contributo critico a quello che succede. Quello che secondo noi manca nel dibattito sull'Italia è proprio probabilmente una questione di metodo, una questione di approccio. È difficile trovare una prospettiva che sia basata sul pensiero critico su quello che succede in Italia, e quello che vorremmo proporre noi è proprio questo: creare un luogo in cui si possa discutere criticamente, fondandosi sulla fonte primaria, sul materiale, sulla sostanza, su quello che accade in Italia, e arrivare a un certo punto con un percorso di ricerca. Ad Oxford c'è un'atmosfera in cui il ricercatore, anche se ha 26 anni, è messo al centro del sistema, tutto è fatto per poter metterci in grado di sviluppare le nostre idee in totale indipendenza, con supervisioni molto aperte. Quindi ecco, tornasse in Italia mi piacerebbe trovare la stessa situazione. In Italia manca la passione per la ricerca e spesso i meccanismi che la regolano sono alterati. Oggi bisogna essere degli eroi per fare il ricercatore e resistere ad un sistema penalizzante che si ripercuote sull'intero sistema paese. È quanto sostiene Martina Di Simplicio, una delle ideatrici di Fonderia. Di Simplicio è medico psichiatra e sta concludendo ad Oxford il dottorato di ricerca in neuroscienze e psicofarmacologia. La consapevolezza che ho maturato è che la ricerca è soprattutto una passione, che è qualcosa che non funziona se uno non si appassiona a un'idea, un'intuizione, a un progetto, un argomento particolare, e che quindi sulla scia di questa passione bisogna avere la libertà di seguire l'idea, di svilupparla in libertà. E se questo è il presupposto della ricerca, ecco, già si capisce come fare il ricercatore in Italia può essere impossibile, perché in Italia non è possibile spesso muoversi liberamente. Non è possibile muoversi per andare a studiare là dove qualcuno coltiva la stessa passione, condivide un'idea simile. Non è possibile andare a cercare il centro di ricerca che si occupa del tema, dell'argomento che appassiona e interessa. Per esempio, io mi occupo di neuroscienze applicate alla psichiatria. Mentre facevo la scuola di specializzazione in psichiatria, ho cominciato a capire qual era secondo me il settore delle neuroscienze che per me, per quello che interessava a me, poteva dare qualcosa di più alla mia materia, che mi sarebbe piaciuto approfondire. E sono finita a studiare, a occuparmi di cercare di studiare come le terapie, gli antidepressivi, la psicoterapia, per esempio, agiscono sul cervello, utilizzando alcune tecniche come la risonanza magnetica funzionale. Ecco, non si tratta di studi necessariamente avveniristici o cose impossibili da fare in Italia, però si tratta di un tema, di un argomento che richiedeva delle tecniche e del know-how che non c'era nella mia università, e per me sarebbe stato impossibile accedere ai centri in Italia dove per esempio si fa risonanza funzionale applicata alle neuroscienze, perché non sarei stata interna a quell'università, non sarei stata interna a quell'ateneo, non sarei stata allieva di qualcuno in quell'università, e quindi diventava impossibile provare a fare la ricerca che appassionava me in Italia. Troppa burocrazia e poca lungimiranza sono ostacoli insormontabili e la fuga dei cervelli dall'Italia è inevitabile. A Martina è bastato inviare un'email all'Università di Oxford per chiedere di intraprendere un nuovo percorso professionale ed essere messa alla prova. Oltre Manica le è stata offerta la grande possibilità ed un suo ritorno nel nostro paese è per il momento a dir poco improbabile. Come dire, la ricerca in Italia si ferma proprio dall'inizio, dall'ABC, dall'accesso. Il percorso di ricerca delle persone parte dai dottorati, e in Italia i dottorati si vincono, salvo eccezioni, solo da interni, da allievi, come minimo allievi, se non parenti. Però possiamo perdere, come dire, l'estremo male del nepotismo, che pure è l'aspetto più grave dell'università italiana. Però dicevo, un dottorato di ricerca si vince se uno è interno, se uno è allievo ed è un docente che ha potere nella scuola di dottorato, e altrimenti se uno è semplicemente bravo, interessato, ma viene da un'altra parte, così non concorre. Quindi è chiaro che questo falsa la ricerca in Italia fin dall'inizio, che non c'è libertà di opportunità, che anche se ci sono centri con un minimo di finanziamenti, mezzi qualificati, uno deve così avere la fortuna di essercisi ritrovato in qualche modo, perché non c'è un accesso alla ricerca basato sul merito, sulla libertà delle opportunità, delle proprie idee. Alessia Manganaro, 27enne di Palermo, è dottoranda in neuroscienze. In Inghilterra è impegnata a sviluppare un progetto di studio sul cervello. L'Italia mette a disposizione i futuri scienziati e gli atenei stranieri ringraziano. Pensando all'università italiana, devo dire che uno dei sentimenti che provo in qualche modo è quello di rammarico. Rammarico nel vedere un'università che è in grado di preparare molto bene gli studenti per poi appunto in qualche modo mandarli in altri paesi a lavorare per altri centri di eccellenza, che sono i veri e propri poi fruitori, coloro che raccolgono i frutti di quello che l'università italiana ha prodotto. E penso che molte delle università all'estero siano consapevoli di questo, sono sempre molto aperte a ricevere degli studenti italiani. E il perché l'università italiana non riesca ad essere competitiva o a trovare appunto dei posti poi alla fine di lavoro per i suoi laureati, secondo me non è facile veramente da motivare e da risolvere in un breve arco temporale. Sicuramente ci sono tanti cambiamenti da fare, ma tanti cambiamenti purtroppo nelle fondamenta. Alcuni dei pilastri, secondo me, portanti dell'università andrebbero un po' smussati. Mi riferisco ovviamente anche a questa idea della cattedra, l'idea del grande professore o della grande dinastia di professori. Dalla fonderia di Oxford comunque il messaggio è chiaro: cambiare l'Italia è possibile, la sfida lanciata dalla città delle guglie sognanti non è affatto un'utopia. Italia in controluce termina qui e vi ricordo domani la pillola legata ai temi di stretta attualità.